Europa 24. Buon pomeriggio a tutti da Daniele Biacchessi. Seggi aperti, come avete sentito, dalle 8 ora locale in Scozia per il referendum sull'indipendenza. E fronte compatto dei principali quotidiani britannici che oggi hanno lanciato appelli in extremis nei loro editoriali rivolti ai cittadini scozzesi perché votino in favore dell'Unione. Il Times ricorda come si debba salvare quella che definisce la nostra orgogliosa Unione. Per il giornale sono troppi i rischi attorno alla secessione che indebolirebbe Londra ed Edimburgo. Il Guardian invece sottolinea come gli scozzesi potrebbero fare un grande regalo al popolo britannico, la possibilità di forgiare una nuova unione, di condividere i poteri, di rompere la paralisi e la centralizzazione di Westminster. In Italia si è aperto l'ennesimo scontro sull'articolo 18, il governo ha presentato un emendamento alla legge delega sul mercato del lavoro con il quale di fatto apre al superamento del reintegro dopo un licenziamento senza giusta causa. In Europa le regole sono diverse da paese a paese, una giungla resa tale anche dalla crisi economica. Sul mercato del lavoro, licenziamenti e tutele, nel vecchio continente ciascuno Stato ha scelto la propria strada. Negli ultimi anni sono stati gli spagnoli a spingere più in là i limiti, a seguito dell'impennata della disoccupazione, indeboliti gli accordi nazionali a vantaggio dei contratti aziendali, all'interno dei quali si può decidere su salari e turni. Eliminati molti dei vincoli ai licenziamenti collettivi, resta in piedi il confronto con i sindacati, ma l'annullamento dei licenziamenti è ammesso solo in casi limitati. I singoli invece possono essere lasciati a casa appena il fatturato cala, ridotto anche l'indennizzo per licenziamento senza giusta causa. I tedeschi, all'indirizzo dei quali Renzi guarda spesso, hanno messo mano al mercato del lavoro prima della crisi, a metà degli anni 2000. Hanno lavorato molto sui sussidi e hanno toccato poco la disciplina dei licenziamenti. Più stringenti i criteri per accedere all'indennità di disoccupazione e chi rifiuta un'offerta dell'ufficio di collocamento perde il diritto all'assistenza sociale. I disoccupati di lungo periodo percepiscono una sorta di reddito minimo, rafforzata la contrattazione locale. Detto questo, i lavoratori atipici sono aumentati dopo la crisi, ovunque in Europa. In Italia quasi 2 contratti su 3 stipulati negli ultimi anni sono stati per lavori a tempo determinato. In Francia, dagli anni 80, i contratti a tempo determinato sono sestuplicati. In Germania, circa 9 milioni di lavoratori sono occupati con contratti atipici, mentre in Belgio è esploso il lavoro domestico a ore. E se poi per caso il precario spera nel trasferimento all'estero, deve mettere in conto che sommare i periodi lavorativi ai fini della pensione potrebbe risultare impossibile. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E proprio sul lavoro ieri, il giallo della conferenza europea programmata in Italia. Annunci smentiti per tutta la giornata. In serata a Radio 24 la conferma è arrivata dalla presidenza del semestre italiano. Il vertice si farà, ma non è stata ancora decisa la data. Lo strano caso del vertice sul lavoro. Quando prima Enrico Letta, poi il suo successore Matteo Renzi, posero tra gli obiettivi del semestre di presidenza europeo l'occupazione, in particolare quella giovanile, a molti sembrò logico che Roma organizzasse un summit ad hoc, terzo appuntamento dopo gli analoghi vertici di Parigi e Berlino. Quello che non ci si poteva aspettare era l'incredibile sequenza di rinvii e annullamenti che avrebbe accompagnato la storia di questo summit. Una prima data, quella dell'11 luglio a Torino, fu annullata. Nessuno lo ammetterà ufficialmente, ma le autorità avevano sottovalutato i rischi di forti disordini a causa della preannunciata offensiva dei Notave e dei gruppi antagonisti. Quando se ne accorsero, spostarono il summit. A fine agosto Renzi annuncia una nuova data, il 6 ottobre, che nei giorni successivi diventerà il 7 e poi ancora l'8, forse a Roma o più probabilmente a Milano. Poi più nulla, fino alla comunicazione del sottosegretario della Vedova all'Europarlamento, che cancella il summit per cause di forza maggiore, costretti a farlo, dice laconicamente. Ad aggiungere confusione la successiva controprecisazione di Palazzo Chigi, che rimette il summit nuovamente in calendario l'8 ottobre, ma forse come semplice conferenza, senza cioè i 28 leader. Un balletto poco onorevole per l'Italia, su un tema delicato come quello dell'occupazione e con la riforma del lavoro di estrema attualità. Non è un bel modo di cambiare verso in Europa, almeno nello stile. Sergio Nava, Radio 24, Il Sole 24 Ore. È tutto per Europa 24 di oggi, vi saluta qui Daniele Biacchessi. Europa 24, in collaborazione con Euronet Plus.